Si sta lavorando. Eccolo! Now recording. Che cazzo sta... Vabbè. Benvenuti! Episodio numero 218. 218, grazie! Con me ci sono Finstein, cioè Jacopo, Andrea e... Non ti ricordi il mio nome? Angela. Sei attento, sei attento. It's a trap. E sono un po' stanco stasera. Allora, niente, che cosa devo dire? Ah, stasera registriamo un film. Allora, intanto volevo dire a tutti quelli che ci seguono, che non sono quella persona che sto per citare adesso, che abbiamo parlato molto del podcast venerdì sera a una cena con dei nostri fan, un È vero. nostro fan. In realtà dovremmo solo parlare di film, abbiamo deciso, cioè ho deciso che dovremmo solo parlare di film brutti così da fare e cercare sempre film belli così da fare meme e de deve diventare un nuovo podcast di noi che cerchiamo film belli ma in realtà continuiamo a vedere film di merda. E niente, poi gli ho chiesto se trovava un film bello e voleva fare la puntata, un film bello che l'ha pre, poi ha sparato un sacco di film sapio, però Sì, adesso ci stiamo esatto. lavorando, dai. Tipo, un Non mi esempio, uno. ricordo, ha detto un sacco di cose che ha visto. Ha visto quello, quelli. Ci penso. Allora, i film che sono al teatro al cinema indipendente di Torino, dove ci va Sì. solo roba ultra sabbio. Me l'ha descritto uno che è praticamente la grande abbuffata, ma con l'alcol, non ho Sì. ben capito. Ah, Druk, intendi? Non Quello so con Mads se... Mikkelsen. No, non Un quello. altro giro. No. Carino quello. E niente, questo era per l'intro di questa puntata. Che altro devo dire? Ah, Di cosa parliamo? sì, di cosa parliamo? Interessante. Allora, parliamo di un film che è uscito poco fa al cinema e ancor meno poco fa su Netflix e il film si chiama Frankenstein, credo. Ok. E aspettate che non ho più il mio... Mi ero messo tutti i cosi. Allora, vabbè, niente. E cominciamo dicendo che Frankenstein, film di Guglielmo del Toro, lo aspettavamo, l'abbiamo già citato e lo aspettavamo io per curiosità, voi non so per quale motivo. Non ho visto il trailer, non ho visto niente. E in realtà è un po' che non guardo film di Del Toro e lo dirò, lo ripeterò anche alla fine di questa puntata, mi manca un po' Pacific Rim come mood, però vabbè. È vero, Quando sì. te l'ho fatto rivedere ti sei lamentato. Sì, però ho capito, cioè stiamo paragonando. Vabbè, poi ne parliamo. Cosa devo dire? Vabbè. La trama? No, sì, vabbè, non la trama. Volevo dire, intanto che dura... Troppo. No, non volevo dire questo, volevo dire che dura tanto. Diciamo che potrebbe essere una Ah, basta, miniserie. 2 ore e 40. Esatto, Netflix poteva fare una miniserie, non l'ha fatta perché lui l'ha venduto al cinema, penso sia l'unico motivo, perché sennò secondo me l'avrebbe fatta. E, vabbè, cominciamo da, insomma, da Frankenstein. Allora, Del Toro ha preso una favola che, cioè una favola in realtà, no, un romanzo che conosciamo, che conoscono tutti, e ha fatto una trasposizione del romanzo. Io non è che mi ricordi al 100% com'era. Io avevo studiato Frankenstein nella letteratura, cioè nella letteratura inglese quando ho fatto il liceo. Non mi ricordo più, e l'abbiamo anche letto, mi sa. E non mi ricordo più un cazzo, quindi mi sono andato a rivedere due o tre robe, giusto per capire perché, diciamo, la trama assomigliava un po' a quella di Mary Shelley, no? Il libro scritto da Mary Shelley nel 1800, all'inizio del 1800. E in realtà, se, adesso non vorrei dire puttanate, però insomma, lui ha tenuto un po' di libro e poi ha scritto una favola sopra. Detto in parole povere. Allora, cosa ha tenuto del libro? L'introduzione, cioè l'incipit narrativo è simile, se non uguale. Noi veniamo. Diciamo, questo film inizia con un preludio che è quando vediamo per la prima volta il dottor Victor Frankenstein e la sua creatura, e li vediamo grazie a, diciamo, alla scoperta. Il nostro punto di vista è questo capitano danese che approda in, cos'è, il Polo Nord, immagino, qualcosa del genere, sì, boh, qualche parte del Polo Nord. Dopodiché abbiamo la vera e propria trama che è divisa in due parti, e questo non c'era nel libro, secondo me, però insomma, ed è il racconto prima di Victor e poi della creatura. Quindi abbiamo tutta la storia in una sorta di flashback, di narrazione, insomma, con un narratore che è appunto prima Victor e poi prima il dottor Frankenstein e poi la creatura. E dopodiché abbiamo questo epilogo finale, che in realtà non è un vero epilogo, cioè proprio continua proprio la trama, non credo che non mi pare neanche che cambi capitolo. E, il film ha proprio i capitoli, nel senso preludio e poi c'è un titolo. No, c'è tipo l'inizio, il Episodio 1. presente, tra C'è proprio virgolette. preludio. No, c'è scritto. Sì. Ma forse sto dormendo. Subito all'inizio stai dormendo. Sì, poi sono rimasta sveglia tutto il resto del film. No, c'è proprio il preludio. Quello che non credo ci sia è l'epilogo. Cioè, L'epilogo. nel senso, fa parte della seconda parte, però sì, di fatto c'è un epilogo finale. E questa parte di introduzione iniziale, di storia raccontata, è uguale a quella che è nel libro. Dopodiché, già da subito, la storia si discosta un po', perché Del Toro decide di dare una nuova caratterizzazione al personaggio dello Della creatura. scienziato, no, di dottor Ah. Frankenstein, proprio la sua backstory è diversa. E poi magari ne parliamo un po'. E da quel punto lì, abbiamo già deragliato di fatto, perché lui ha già aggiunto nuovi personaggi, ha già aggiunto un nuovo tipo di rapporto col fratello e con quella che diventerà la sua amata. Poi, vabbè, in realtà non è neanche tanto approfondita sta parte. Per finire poi con la parte di Frankenstein finale che cambia proprio, cioè, no, scusate, la creatura finale che cambia poi tutto quello che c'era nel libro. E per quanto rimanga la traccia appunto della struttura narrativa. Cosa volevo dire prima di parlare della trama? Volevo dire che intanto il dottore è interpretato da un Oscar Isaac che io ormai non sopporto più perché mi sembra che ripeta sempre. Cioè, è personale, sono convinto. Però mi sembra che il suo personaggio sia proprio lo stesso, e visto che a me non piaceva il suo. Cioè, è il suo modo di recitare in realtà che è lo stesso. Poi lui è bravissimo, per l'amor di Dio, fa. Quando gli si viene data l'opportunità, fa delle cose assurde. In questo film mi sembra. Vabbè, ne parliamo dopo. Beh, intanto devo citare il capitano, no? Il nostro capitano, il fratellone di Mads, Esatto, Lars grande. Mikkelsen. Mikkelsen. E poi abbiamo. Chi abbiamo? Di importante. Abbiamo un Christoph Waltz che è importante perché è un personaggio che non è mai esistito, che si inventa Del Toro e che però serve per guidare la narrazione, perché è quello che dà l'obiettivo a Victor Frankenstein. Chi altro devo citare? Devo citare Mia Goth, probabilmente, che è l'Elizabeth, che è nel libro, ma non è nel libro allo stesso tempo perché è un po' diversa. E sicuramente devo citare Jacob Elordi, che è quello che fa che interpreta la creatura. E poi ne parleremo anche perché fa un po' ridere come l'ha truccata e creata. Cos'altro voglio dire della trama prima di lanciarvi? Cioè, a mio parere, la trama è un po' la riconferma di quello che fa Del Toro, cioè lui crea il mondo, nel senso che lui è lui che crea la narrazione, la sceneggiatura, come ha già fatto in mille altri film. Cioè, l'idea è quella di avere una sorta di horror, ma in realtà non è un horror, è un fantasy. E infatti anche questo Frankenstein diventa proprio la narrazione fantasy. In più c'è quella cosa che sta aggiungendo un po' alla fine, che ha aggiunto anche. Puoi tenerlo. Che ha aggiunto anche in La forma dell'acqua, che io non ho visto, ma mi sono fatto spiegare. Ovvero questa sorta di straniamento per cui il mostro è la creatura è il mostro, eccetera, eccetera. Il mostro siamo tutti noi e la creatura invece è il bene nel mondo. Questa cosa qua, che non so come gli sia uscita, ma ritorniamo a quello che ho detto prima di iniziare la puntata, preferivo Pacific Rim. Basta, adesso lascerei un po' parlare voi, così io la smetto di annoiarvi e poi magari mi spiego meglio e trattiamo meglio questi punti. della trama non l'ho detto una sega, ma di fatto, cioè, Frankenstein è sempre quello, cioè, non è che mi invento, cioè, che si è inventato, che ha capovolto tutto, cioè, la storia è sempre la stessa, lui che è il dottore che sconfigge la morte, vuole creare la vita dalla morte, e per un motivo un po' diverso, però fondamentalmente sempre la stessa roba, e decide di creare questa creatura. E poi la creatura diventa il mostro diventa la creatura e via dicendo e basta. Beh, prego, ditemi voi, quante candidature all'Oscar gli date? No, ma Salla, prima di tutto, come? No, la mostra di Venezia leggevo prima che è stato applaudito molto. Ha vinto qualcosa, sì. Sì, ma mi è piaciuto. È stato nominato per il Leone d'Oro. Ecco, appunto. Salla, mi pare di capire che non ti è piaciuto questo film, o sbaglio? No, allora, non è che non mi è piaciuto, è solo che, diciamo che da Del Toro... Cazzo! Che cosa? Avevi scommesso? Cazzo. No, vai. No, diciamo che da Del Toro io mi aspettavo... Allora, mi piace molto sempre lui come gestisce la scenografia, e rende tutto molto fantasy, cioè sembra proprio alcune inquadrature, sembra Barad-dûr, la torre dove fa il coso, non so se avete notato quando esplode. Sì. Cioè, sì, è incredibile, e però cioè, mi sta sulle balle che si è preso la briga di dire la solita puttanata, nel senso che alla fine il succo del discorso è il mostro non è il mostro, ma il mostro è il dottore, va benissimo, Gnorm, cioè Frankenstein poi è quello, però fa dei salti di incoerenza che mi stanno sul cazzo, cioè Del Toro, porca puttana. Io non voglio che la creatura dice Victor, e poi dopo 2 minuti legge le poesie del marito di Mary Shelley, cioè... O Ozymandias, invoco il mio nome, ma scusami, dai. Vabbè. Ho capito, quindi non ti è piaciuto. Sì, non mi è piaciuto. Però l'ho visto tutto, non ho dormito e l'ho visto quasi tutto di fila. Sì. Wow. C'è stato tutto di fila? 5 minuti. Si doveva... Wow. Cioè... Bisognava registrare, non potevamo vederlo prima. E quindi... Ah, quindi avete visto proprio oggi? Sì, proprio adesso. Freschi. Freschi, ok. E poi mi fa incazzare, scusa, finisco un attimo il mio rant. Mi fa incazzare che il mostro sia un figo atomico. qui ti volevo una creatura deforme per cui la gente lo vede e fa oh mio Dio è un pezzo di cadavere, è uno zombie, che schifo, questo qua è un figo atomico, è un modello. Esatto. Un modello. Cioè, lei lo vede e fa ah cazzo, me coglioni, sembra molto proprio Frankenstein Junior, no, che fa il tuo schnitzel, E poi lo, però lei lo vede ed è un figo da paura. Lui lo vede e lo vuole uccidere perché lei lo trova sexy, perché è quello il succo del discorso. Il cacciatore lo vede e fa è un mostro, oh mio Dio, non è vero, è un figo. Cioè, allora, l'unico coerente da lontano, è il cieco che non lo da lontano lo ammetto che vabbè. È un po' strano, però sì, cioè questo è un grosso problema che ha questo film, purtroppo, il signor Giacobbe Lordi. Però è stato bravo, dai. Sì, no, lui è stato bravo. È un figo, ma lui è stato veramente bravo. Ma all'inizio era anche un po' deforme, soprattutto in volto. Non è vero. Sì, no, appena lo scopre, era più deforme, grigino, crocadavere. Ah no, poi ha senza bronzato, capelli, poi eccetera. Poi... Alle Maldive è andato. Scende giù dal canale e cambia tutta la storia. Sì, gli crescono anche i capelli giusti, pettinati, è un figo atomico, cioè è incredibile. Lì sono tutti dei morti, lui è naufrago, l'acqua salata, lui però... Cioè l'unica roba che ha è la fronte un po' blu, cioè questa è la roba che sembra la pubblicità di coso lì, quello con i marinai, come... È un profumo, credo, quello di Dior, ma non sono sicura. Cioè... Vabbè, basta, smetto di parlare... No, prego. Ma voi invece? Non solo questo, quindi. Allora, Mangia. sono un po' combattuta. Ci sono delle cose che mi sono piaciute molto, tipo la musica, l'uso della musica, che era molto situazionale, con addirittura dei richiami molto Adams, quando entrano tipo nel laboratorio all'inizio. Sì. Mi è piaciuta moltissimo la scenografia perché aveva un sacco di ambienti, molto belli, molto fatti. Faceva anche schifo i cadaveri. E quindi quello Vero. mi è piaciuto moltissimo. Mi ha dato fastidio la roba che appunto lui si fa un bagno in mare e a quanto pare ha preso una laurea. Ed è lungo. Un po' erano noi stanchi, quindi non è che... Però è lungo, cioè secondo me un 40 minuti buoni si possono tagliare o farne una miniserie in quattro No, episodi. non l'avrei mai visto. No, ma io l'avrei visto come miniserie, ne fai due episodi dal punto di vista di Victor, due episodi dal punto di vista della creatura, con l'epilogo e boh, è fatto. Come film è un po' lungo, è 2 ore e 30, allunga un po' la faccenda. Ah, c'è un'altra cosa su cui io mi lamento, cioè che esplode tutto alla Michael Bay, bellissimo, esplode tutto, implode tutto. L'unica cosa che non brucia dentro nelle esplosioni con un quintale di benzina su cui è stata buttata sono la ricerca. E la È lettera la lettera intatta, del coso. perfettamente Che intatta. tra l'altro fa so dove trovarti, ma non è vero perché non vai lì, cioè vai dal fratello. Vabbè, comunque niente. Famosamente l'unica cosa non infiammabile è la carta. Esatto. Difficile da bruciare. E Mai anche lì la sua laurea in ricoperta, medicina l'ha aiutato a capire perfettamente di no? cosa Esatto, sì. parlasse. Però, cioè, non è, cioè, il tempo che passa non è ben definito. No, ma è che Magari. passa meno di una No, stagione. infatti la cosa da una parte carina, da una parte è ovviamente una merda, è che lui del Toro ha scritto il film come fosse un romanzo, no? Quindi fa. È praticamente come se tu leggessi e lui l'ha inseguito per tutta la storia, tutte le strade, tutto il mondo. Il problema è che la resa cinematografica di sta roba sono loro che corrono nel ghiaccio e diventano loro che vanno con lo slittino. Cioè, una roba che si faceva negli anni 90. Vabbè, basta, la smetto, vado via. Basta, non devo parlare di questo film. Falla è all'ist. E che ha Mamma mia. fame, quindi Sì, ho ormai non ha più fame. filtri. Sono stanco. Capito. E Andrea che dice? Sei Jacopo aspetta Ma tutto da esatto. tardi. Io sto aspettando, sto covando Il rancore. comando era ancora, esatto. No, vabbè, io confermo più o meno quello che avete, cioè, quello che avete detto. In realtà, a me, cioè, io solitamente non. A me non danno fastidio, cioè, i tempi. 2 ore e mezza di film, solitamente non lo sento. Eppure, un po' mi ha contagiato il Salla, il nostro Salla. E effettivamente ho fatto fatica, tanto che. L'ho visto in due pezzi, l'ho visto un po' Grande, ieri sera e un po' wow, stamattina, non ce l'ho fatta, mi è per un caduto tutto una botta. attimo ho pensato dicessi ho skippato una parte e stavo già No, no, godendo, però no, non ho skippato, però l'ho visto in due pezzi, non ce Mai l'ho fatta. visto spezzato bene, tipo spezzato quando parla lui, oppure spezzato? Ho fatto letteralmente, cioè ho il capitolo, il racconto di Victor e quando inizia il racconto della creatura mi pare che ho spezzato. No, No, no, ho giusto. lasciato a metà il racconto di Victor. Ah, merda, ok. Addirittura. Addirittura. Sì. Noi no, la pausa è stata dopo quando ha cominciato la creatura. Io dopo 2 secondi ho Sì, messo in pausa. perché in realtà Vabbè. c'è un'altra cosa che ti ha fatto arrabbiare, ma te la sei dimenticata. Ah sì. Vabbè, diciamo dove. Intanto voglio sentire Jacopo che è lì che cova. Allora. No, allora, vi chiedo un attimo di comprensione. Per me è difficile parlare mai del toro. Cioè, è contro la mia natura, è contro Cioè, lui ha scritto tutto ciò che Trollhunters e credo. poi ha scritto anche i mostri imparano a leggere, cioè. Vabbè. Allora, Trollhunters è Eh capolavoro. no, infatti. No, diciamo che Trollhunters? Ah. è È il il cartone. cartone. Ah, La ok. cosa che un po' mi ha fatto calare del toro in realtà è Nightmare Alley, che è l'ultimo che ho visto, non mi ricordo quasi nulla e c'è un motivo, nel senso che mi ricordo che non mi era piaciuto. Del Toro c'ha sta cosa ogni tanto che se ne esce con della roba che secondo me è troppo semplice, è troppo diretta, è troppo, cioè questo film io lo aspettavo da un sacco, anche lui lo voleva fare da un sacco, cioè è uno di quei film che sono perfetti per Del Toro, è una cosa che lui ci pensa da tanto, che vuole fare da tanto, con un budget grosso perché Netflix ci ha buttato letteralmente 120 milioni, secondo me buttati, però 120 cioè milioni? Vabbè, però minchia, solo sì. la sceneggiatura è. Cioè, la scenografia è. Sì, ma non hanno No, no, sistemato il tempo di scenografia. fare l'esplosione, evidentemente. Cioè, scenografia è bellissima, trucco bellissimo, cioè tutto Esatto, sì. I bellissimo. costumi sono. Ma infatti ero Però la gasatissima cosa. perché. Scusami. Come? No, Vai, vai. ero gasatissima perché il mostro quando lo li toglie era un mostro, ma truccato, fatto solo di trucco. Ed era. Cioè, mi piaceva un botto. E poi però gliel'hanno tolto. Sì, hanno, secondo me hanno un po', si sono un po' spinti troppo in là, soprattutto con la testa, con la forma della testa, cioè l'hanno lasciata un po' troppo normale, non Perfetto. alla Frankenstein, sì. Abbi Abbi normale. no. E quindi, boh, cioè, secondo me poteva, cioè, il genio di Del Toro è anche nel non usare il budget, cioè di avere poco budget e arrangiarsi. E in alcune scene lo ha fatto, cioè in alcuni momenti, tipo che ne so, dove non aveva più la luce, ma comunque ha girato cambiando frame rate, cambiando, cioè comunque si è arrangiato per ottenere certe inquadrature, Si certi. vede, però. Si vede, sì, in alcuni momenti proprio dici, questi Dovevi ultimi 30 partire così. secondi di luce. In Norvegia, non so dove cazzo le ha girate quelle scene, però in alcuni momenti si vede che proprio le ha Ma fatte a anche sulla fatica. CGI, quando sono esplosi i lupi, ha avuto qualche problemino di. Vai, scusa, l'inquadratura del topo Però, era tipo un ratatouille. Sì. però capite, cioè, queste cose del Toro, secondo me, anche con meno soldi te le fa, e te le fa pure meglio forse, Sì, cioè, nel era quello di senso, sì, è l'idea prova. di Pacific Rim. No, anche prima. Cioè, Pacific Rim comunque è costato un botto, pieno di effetti, eccetera. Non lo so. Remake. Mimic, esatto. Però comunque è uscito benissimo. Cioè, come hai detto voi, creature stupende, cadaveri, Allora, meglio cose questa tua. guppose. Pacific Rim è costato Cioè. 180 milioni di dollari, che effettivamente è di più. 180. 180, però ci hanno fatto dei robottoni e dei kaiju, oltre ad aver Sì, distrutto mezze città. esatto. Cioè, richiedeva proprio Sì. più effetti speciali in generale. Sì, vabbè. Sarebbe da vedere quanto costa ora Pacific Rim, cioè se con Non lo so. l'inflazione. No, no, quello effettivamente sicuramente. È tipo Hellboy? E poi quanto sarà costato? Non lo so. Comunque è quello. Hellboy, tutto quello che volete. È una favoletta, come dice Salla, ed è una favoletta raccontata, minchia, troppo lento. Cioè, Poi per dire delle al di là di. puttanate. Allora, al di là che inizia con, forse vi starete chiedendo come siamo venuti finiti qui, no? C'è, cioè, la solita Sì, cosa che sì. fa Vabbè, incazzare quello lo fa Sal. anche il libro, vabbè. Però, cioè, la questione è che poi continua questa cosa, perché è come se, non lo so, è come se avessero mostrato questo film a qualcuno e dovessero ricordargli che c'è un flashback, no? Sì. Che poi arriva la creatura e dice, ah, e ora ti racconto io. Cioè, che bisogno c'era di. Queste sono cose che tu risolvi col montaggio, non serve che le dici, cioè non serve che sprechi un minuto, 2 minuti a reimpostare tutto, perché appunto non è una miniserie, è un film. Ma anche il finale, cioè al di là che tutto il film, la storia non è il punto, la storia la sappiamo tutti e anche la storia, quella rimaneggiata, sappiamo già dove sta andando a parare, perché cioè non ci vuole uno sforzo per E no, capire anche qual perché è dice, il esatto, tema. dice una stronzata. Lo dicono letteralmente in più punti del film. Quindi a un certo punto io sono arrivato e ho detto: ah, ok, e mo' il film finisce. E invece no, è durato altri 20 minuti. Cioè, che bisogno c'era di quella, esatto, di quell'inseguimento, come dicevi tu, in mezzo al Polo Nord? Cioè, boh, troppa Ma roba, anche, specialmente alla non fine. so se avete notato, c'è una piccola incoerenza, oltre, vabbè, oltre all'incoerenza che a me fa incazzare, che è quella che lui impara, vabbè, questo vabbè, lasciamo stare, fa No, quella ci sta, sospensione della quella è realtà, storia, sì. vabbè, ok. Però nella parte raccontata dal mostro, dalla creatura, ci sono due scene, anzi forse sì, due scene in cui la creatura non c'è, sono dal punto di vista di Victor. Su questo ho una teoria, però non, cioè, è anche riferita a Victor, perché anche Victor alcune scene che racconta le racconta dal punto di, cioè, racconta scene in cui non c'è, dove c'è solo la creatura con Elizabeth, magari, no? Sì, però mentre quelle sono tipo Elizabeth che va da lui e dice le ho parlato, è bellissimo, è un uomo incredibile, nell'altra c'è proprio la scena in cui lui si scusa che non serve a niente, cioè... Secondo me invece è tipo, non è tanto che tu stai vedendo la storia, cioè è questo il problema di ripetere più volte che stanno raccontando, perché secondo me ti perdi anche qual è il vero discorso, ovvero che la prima parte in realtà Victor non la sta raccontando onestamente, non so come dire, cioè lui, secondo me quello che sta davvero raccontando al marinaio non è quello che vediamo noi. Non so come dirlo. Cioè, quello che vediamo noi è la versione reale, tra virgolette, di Sì. Che quello che lui in realtà sta raccontando al è un marinaio. Perché problema, quello che. appunto, sì. Che è un problema, ma non sarebbe un problema se fosse gestita meglio a livello di montaggio la cosa, capito? Cioè, non è necessario per forza stare 100% sul personaggio di cui hai il punto di vista, perché comunque la storia è la storia di Victor all'inizio, no? Cioè. Sì. È incentrata su quello e qui voglio cambiare un attimo marcia, quindi cioè nel senso scusate adesso ho insultato il film, adesso voglio diciamo dirvi perché in realtà mi è piaciuto, cioè finora l'ho insultato ma in realtà il film mi è piaciuto perché nella sua semplicità, nel suo essere super diciamo lineare, super diretto, comunque è riuscito a farmi provare qualcosa, cioè specialmente nel rigirare un po' il personaggio di Victor Frankenstein e nel metterlo in relazione più con suo padre, con i suoi genitori, e nel non so come dire, ricontestualizzare anche la relazione con la creatura. Mi è piaciuta molto come idea. Cioè, lo so che è banale, lo so, ah, in realtà i mostri siamo noi, ah, in realtà. Noi Mostri cerchiamo sempre di noi. essere meglio dei nostri genitori, ma alla Sì, fine sì, sì. Sì, rifacciamo gli stessi errori. No, tutte lui a un certo queste punto impazzisce un po' troppo, a mio parere, però ci può stare. Cioè, quando interagisce con la creatura, ha perso il suo essere dottore, cioè è completamente impazzito a un certo punto, ma senza motivo, non è che... cose. No, anche quello è molto veloce, un cambio di È troppo comportamento molto veloce, sì. veloce. Perché cioè, lui vuole arrivare alla parte in cui La odia la per gli creatura. amici ascoltatori, no, a parte quello, vuole arrivare alla parte in cui lui diventa suo padre, di fatto. Perché è quello che succede, no? Che lo frusta quando Sì. sbaglia. Però Sì. è troppo veloce quella cosa. Lui è passato da dire di un'altra parola, ti dico questa è la mano, dimmi mano, a ti frusto a casa. In realtà in mezzo c'è una scena molto importante tra queste due fasi. Ovvero la creatura che si mette in piedi e lo, diciamo, sovrasta, cioè come Sì, posso sì. dire, lo minaccia anche non intenzionalmente, però lo minaccia da un punto di vista di è Jacob Elordi e ti si alza davanti e Sì. vedi i suoi addominali, cioè nel senso proprio lo ridimensiona, non so Lo come abbaglia con la sua bellezza, puoi dire. dire. Lo abbaglia con la sua bellezza. No, però Cioè, non anche so, io l'altra. l'ho trovato molto invece, come dire, pratico da un punto di vista di non lo vede come un essere umano, lo vede come una sua Come un creazione. esperimento, sì, come quello lì, sì, è chiaro, ma infatti E sì, poi si quello poi diventa capisce. l'odio, no? Cioè, Sì. da quello poi comincia a nascere l'odio, ma nasce tutto dal non riuscire a riconoscere tuo figlio come un'altra persona, ma come una tua un'estensione di te, che è quello che ha fatto anche suo padre. Sì, il punto è che erano 2 ore e 32 di film. Sono 5 minuti. Questo dura appunto meno di 5 minuti, cioè sono poche scene. ti sei perso 5 minuti nella scena delle farfalle, no, è di un, lei con le far, di loro due con è le un peccato farfalle. perché poi devi perdere veramente un'ora per lui che impara a parlare. Mentre quello che dici tu è molto più interessante perché è una roba, tra virgolette, nuova, nel senso che, ok, no, non è nuovo il concetto in generale, ma è nuovo nella scrittura di questo tipo di film. La parte di lui che impara a parlare è un po' la solita puttanata, Ma no, ecco. scusa, Ma dici il prima o Thor che parla dopo? con Elisabeth e sono a guardare le farfalle, No, quei quello ci 10 può stare, minuti, insomma, vabbè. 10 minuti. No, io dico, visto che la parte che dici tu è in effetti molto più interessante, cioè la parte di rapporto tra lui e la creatura, invece che perdere tempo inteso minutaggio, a fare lui che vede Gaza e dice le caccabombe, no, che dice questa è una A, questa è una BB, poteva tagliarlo un po', asciugarlo un po' e focalizzarsi un po' di più sul rapporto, perché veramente dura 5 minuti la scena in cui, cioè tra lui che fa esplodere tutto e lui che l'ha creato saranno, boh, No, 10 molto minuti veloce. totale. E Ma guarda, soprattutto, lui. Dimmi, vai. no, è che lo fa come se i tempi fossero molto più brevi e quindi la voce narrante di Victor te lo spiega. Che va bene in un film, però dove effettivamente non hai il minutaggio per farmelo vedere un po' più con calma questo passaggio, questo evolversi del rapporto. Io onestamente avrei tagliato il finale. Non Ah, sì. so se quei 20 minuti del finale li potevano recuperare qui. Non avrei tagliato tutta la parte dove impara a parlare, né la parte con lui, né la parte con Elizabeth, né la parte col vecchietto. Secondo me quella parte col vecchietto è importante anche per collegare, diciamo, tematicamente questa cosa a Pinocchio. Non so, cioè a a cosa vuol dire invece avere un padre, no? Che invece ti supporta, che ti lascia, come dire, libero, tra virgolette, che ti dà semplicemente da mangiare, ti dà un tetto, ti dà un'educazione. Non lo so, cioè, secondo me il contrasto era molto importante e anche il tempo di trovare quelle parole così poi altisonanti che userà dopo e di capire perché le usa e come le usa. Cioè, molte delle cose che cita in quel momento sono abbastanza. Non abbastanza, sono ovviamente collegate a Frankenstein, no? Perché sono tutte cose che Mariscelli avrà letto e si rifanno un po' alle tematiche del film. Quindi non lo so, cioè, avete ragione che poteva essere un pochino più lunga quella parte lì, più esplorata, ma non so se l'avrei sacrificata, non penso sarebbe stato da sacrificare quello dopo, insomma. Meglio sacrificare il finale Ah per sì, me, proprio sacrificare il finale gli ultimi. sicuramente. Però ormai che sei arrivato a 2 minuti e 32, fai 2:40 Due e ore. ci aggiungi 8 minuti di sta roba. Io, come ha detto Angela, forse avrei tolto la parte tra Victor e Elizabeth, tra loro due, che non, boh, È tanto lunga quella, un po' ripetitiva, secondo me. quella è quella che avrei tagliato io, sinceramente. Il resto. Ma a quale parte vi riferite? Perché io Quando non gli fa riesco a vedere la pensare a una foglia che scena. cade, lui regala la Cioè, proprio foglia, tutte queste cacate rapporto qua. tra loro due è un po' troppo, cioè un po' troppo lungo, non credo. No, tra No. Victor e Elizabeth, le Secondo me sì. farfalle, andiamo a prendere le farfalle, torniamo indietro, Ah, dobbiamo quella recuperare. di Victor Sì, Elizabeth, quella credevo non. quella delle Sì. foglie tra. No, quella è anche un po' lunga, però era più interessante. Questo si è preso, cioè era tutto per far vedere che lei gli dà due di picche. Sì, vabbè, poi dicendo che è troppo basso. No, cioè dicendo che sta. Beh, scusami, se può scegliere c'è Jacob, non lo so. Vabbè, però lui Io. non l'aveva visto, Lì no, ancora no. Eh no, infatti è importante anche per quello, secondo me, perché lei in quel momento, secondo me, riconosce cosa ha lui nel cuore, no? Cioè, La parte il nell'orto di motivo Gazzara è la per scena cui. in cui muore. No. Ah, perché anche quella. Spoiler. Questo è il secondo film che vedo dove Oscar Isaac viene ucciso dalla sua creazione. Ops, spoiler. No, però non quando muore Oscar Isaac, quando muore lei mi ha fatto incazzare. Che fa il monologo. No. Ah, vabbè, sì. Anche lì, monologo che non penso sia davvero. Cioè, non penso sia letteralmente quello che è successo, come No, ovviamente tutto il certo. film non lo è. Cioè, sembrava molto epica classica, non so, molto tipo quello che dice lei nello spirito in quel momento. Ma quello che dice lei mentre muore, non ho capito. Sì. Ah, ok. Però mi è piaciuto molto il vestito di lei. Era, a parte le Molto Star scenografie, Wars. no, molto scenografico, un po' Star Wars, però con l'effetto bende sulle braccia, tipo mostro, con i capelli lasciati sciolti, in contrasto con il fatto che prima li aveva sempre tutti acconciati alla moda. E poi per il resto molto casto, perché poi aveva appunto questo vestito tutto, praticamente solo tutto bianco, dritto, accollato. Anche i costumi mi sono piaciuti generalmente molto, a parte appunto la creatura che potevano lavorare un po' sul trucco, però anche quello mi è piaciuto molto. Natural è meglio. Esatto, Esatto, lei si deve svignò. stare nudo. Gli ha messo quel mutandone, ma... Non avete avuto anche voi una vibe un po' alla Dune quando fa vedere lui bambino a casa, che arriva il padre? Cosa Cosa fa vedere? vedere? Esatto. Quando Sì, è c'è vero. l'inquadratura della madre vestita in rosso con tutto questo velo lunghissimo, tutta la servitù dietro, e arriva il padre. Ah, sì, Sembrava Dune 1800. ok. È vero, è Ma... Qual è la parte che mi ha fatto l'ultima incazzare? roba che ti ha Vediamo un fatto incazzare è lo attimo. sfondo di quando lui è nella casetta della Madò, che Baita. fastidio! Che schifo! Ma perché? Perché l'ha fatto? Ma mettici una nebbia finta, quello con le montagne dietro, e le palme, no? E gli alberi, e i pini lì, che cazzo è? Le palme, No, palme avete lontane. presente? Le Sembra famose Torino, palme. no? Vabbè, voi non... Sì. Però Torino è così, no? Tu, in teoria, se il cielo è terso, vedi le montagne e il bosco sotto, però... No, la pianura, in realtà. Però, cioè, ovunque si giravano loro, vedevano lo stesso sfondo. Sembrava lo screensaver messo con la I dietro. Che fastidio, basta, no? Che schifo. Poi da Del Toro non me lo sarei mai aspettato, perché lui le fa ste cose. Cioè, le sa fare ste cose. Ma invece, che volevo dire? Ah, mi è piaciuta moltissimo la scena, ma proprio un botto, che non me l'aspettavo. La scena di lui, della creatura che torna da Victor, quando lo ritrova durante il matrimonio. Non so perché, ma non me l'aspettavo così. Cioè, mi ha molto sorpreso proprio come si è, come, non so, come è andata quella. Sì, Quella conversazione. allora, ora parli, sì, allora sei intelligente, sì, allora ti ho fatto bene, sì. Poi, cioè, concordo con te, era molto padre figlio, il Esatto. figlio il prodigo, però fa Cioè, sempre no, ridere no, perché peggio. sì, ma se tu lo vedi come esperimento scientifico, questo arriva e ti declama poesie davanti in neanche 2 mesi, cioè io direi, oh cazzo, forse ho Più sbagliato di qualcosa. 2 mesi. No, perché in realtà lui arriva che Vabbè, è dopo l'estate l'inverno e se ne va forse. via che è inverno, Sì, quindi 3 mesi, 6 mesi. 6 mesi. Boh. Cioè passa comunque meno di un anno perché è ancora Detto che inverno. un bambino che impara a leggere ci mette tipo 2 annetti, un annetto e mezzo. Però Sì, no, vabbè. pure qualcosa di più, iniziare elementare con le lettere e arrivare alla Vabbè, terza elementare che sospensione di leggi. incredulità, basta. No, ma è questo il punto, cioè che non... La tua reazione... Che quella che dici tu è quella che mi aspettavo, ma in realtà per me ha più senso questa, cioè perché è proprio la reazione di una persona che non è davvero cambiata Sì, no, dentro, che è è comunque vero. rimasto quel pezzo di merda orgoglioso e egocentrico e, come dire, che è quello che aveva visto, secondo me, ecco, una persona di cui non abbiamo parlato, Christoph Waltz, manco mi ricordo il personaggio, come si chiamava, Arbrand, Ah, Il il magnate che gli dà i soldi. che ancora una volta è il miliardario come su Only Murders in the È Building, uguale, che che non vuole è lo morire. stesso personaggio, cioè, che fa molto ridere perché anche qui all'inizio sembra, no, ah, io lo faccio per amore della scienza, poi col cazzo, ovviamente non ne frega un cazzo la scienza, però anche lì, cioè, mi è piaciuto che lui è una cosa che ha visto fin dall'inizio, cioè ha subito capito che non era un vero scienziato, tra virgolette, cioè che c'era quel desiderio sotto di rivalsa e che era disposto a fare di tutto, no? Perché lui alla fine dice: ah, tu hai spento l'esperimento, ma in realtà, cioè per orgoglio, ma in realtà stava per finire la batteria, no? La batteria galvanica. Sì, non so, per me è sembrato tutto abbastanza... mi ha riportato, cioè non mi ha fatto così strano come si è comportato Victor in tutto il film. Quindi boh, a me è piaciuto. È uno dei film migliori di El Toro? No, ma non è uno dei peggiori, cioè... Vabbè, è molto in linea con i film precedenti. Cioè, col suo andamento. Sì, con Pinocchio, sì, con Pinocchio sicuramente. E ancora una volta, no, stavolta il film era bello, però. Sì, no, io una roba che proprio non mi è piaciuta, ed è l'angelo dei sogni. Ah, vabbè, quello sogno. Non l'ho capito. Non ho capito il senso del sogno, perché andava tutto a fuoco, e non ho capito la sua utilità, insieme all'utilità del fratello, però vabbè, quello serviva. L'angelo lui... è il diavolo, è tipo Paradise Lost, no? Tipo... però non... cioè... Faust. Cioè, quello è veramente una roba che mi è sembrata totalmente inutile. Cioè, ho cooperato nel tutto il film, per carità, 3 minuti. Vabbè, fa sempre parte del personaggio suo, che... cioè della sua storia, che è traviato dalla cioè dal voler... Poi lui in realtà è ambizioso, non è davvero... Eva, cioè solo è più l'ambizione del... Vabbè, no. No, ha letteralmente venduto l'anima al diavolo per la conoscenza. Cioè lui lo sogna la prima notte, secondo me anche in relazione alla madre morta, però lo sogna per vendersi l'anima, per dire io voglio vendicarmi, tra virgolette, di mio padre, voglio superare mio padre, voglio sconfiggere la morte, no? E quindi cioè, è tutto quello che abbiamo detto prima, cioè tutto un filone con lui che se ne sbatte il cazzo dell'etica e tutto quanto. Vabbè, volevate aggiungere altro? Perché io ho una cosa interessante da dire. Ha detto vaffanculo alle AI del Toro. Quindi dopo un... l'ha fatto... no, non l'ha fatto con le AI, l'ha fatto un disegnatore. Però mi fa pensare. Come? E quindi il disegnatore poteva pagare una volta sola e andato a riciclare le montagne. Lo stesso sfondo, sì. No, dicevi? No, non so se c'è un'altra cosa. Io non ce l'ho vista. Una cosa contro le AI. Non mi sembra. Penso sia per la storia di Hollywood. No, dici dentro il film? Sì. No, secondo me l'ha detto per la roba di Hollywood di adesso, che c'è l'attrice. Ok. Non lo so, però immagino sia correlato a quello. Che è tutto un movimento, appunto, degli attori che hanno un po' paura e un po' semplicemente... Vabbè, di fatto l'attrice AI è propaganda, perché non è niente di più. Tra l'altro adesso, vabbè, non è che ci siano proprio in buone acque le AI in generale, soprattutto in America, perché ci sono state non so quante denunce di suicidi e cose, quindi vabbè, si aggiunge. Cioè Del Toro fa solo parte del movimento di Hollywood. E, no, volevo dire che all'inizio di... non c'entra niente col film, quindi è per quello se volevate aggiungere altro col film, sul film... praticamente prima del film abbiamo visto una pubblicità, cioè Netflix ci ha proposto una pubblicità qui non si capiva un cazzo di niente, è la pubblicità di Prada, adesso vediamo se la ritrovo, con Scarlett Johansson. Se vi capita cercatela. Dicevo che ti dice il regista della pubblicità alla fine. Sì, non si capisce una sega di niente durante tutta la pubblicità. E il regista della pubblicità alla fine... cioè tu ricolleghi quello che hai visto perché leggi il nome che è l'Antimos. Ah! E praticamente ha fatto questo short, questa piccola clip, ma in cui cita le sue solite cose del cazzo dei suoi soliti film... però è una pubblicità di Prada e quindi non si capisce niente e ha raggiunto il suo scopo, perché ora mi ricordo di sta pubblicità di merda e la sto citando nel podcast. Vabbè. E niente. Ora la guardo. Io all'inizio pensavo fosse collegata a Frankenstein. Sì, o fatta da Del Toro, invece No, no, non invece non c'entrava c'entrava niente. niente. Vabbè, se vi capita, se conoscete il regista, poi adesso che ve l'ho spoilerato, capite subito. Illness. Sì, esatto, cosa sta succedendo. Ma invece voi sapevate che io l'ho scoperto oggi dopo la visione di Frankenstein che c'era anche Dracula di Luc Besson che è uscito al cinema. Ah. Ah, me lo propone Instagram un film di Dracula, però l'ho ignorato Beh, perché non lo so. io non ho visto nessuna pubblicità riguardo niente di No. niente, l'ho scoperto a caso oggi. Vabbè, così. A me Dei miei proponeva colleghi sono andati a vederlo. Netflix. Sapete com'è? Ho Dracula, no. sentito che è ridicolo. Ah, Ridicolo. bene. Quindi dovevamo vederlo. Allora, io l'ho ignorato perché era di Lucky Red, che non so perché mi ricordavo qualcosa che di solito non mi piace. Vabbè, la Kired è il produttore, però. Eh Vabbè, sì, però non mi sembrava un buon segno. però ha fatto un botto di roba. Però è Luc Besson, quindi. Cioè, il quinto elemento, ragazzi. Esatto. Cioè, comunque è abbastanza famoso, è Arthur è abbastanza. il popolo dei mimei. Vabbè, ha fatto anche cose buone. Con Christopher Waltz. No, comunque, quindi è ridicolo, dici? Ma ridicolo tipo da un livello tra quelle Twilight, come siamo. Anzi, no, tra quelle Dracula Untold. Anche qui c'è Christoph Waltz Sì. comunque. Ma era Ok, ovunque, quest'anno ha fatto perfetto. 26.000 robe. Bravo, così va in pensione. Questo è il futuro, giusto? Beh, lui ha Giusto fine. 70 anni quasi, quindi. C'è anche un'attrice italiana, Ma Matilde sì, Matilde De Angelis. Angelis. Bolognese, 95. Sì. Ma che è quella di White Lotus? No. È quella di White No. Lotus, mi sa di sì. Davvero? No, non è Non White Lotus. credo. Non è quella di White Lotus. È Quella quella di White di. Lotus poi era forse la siciliana. Sì, non è quella di White Lotus. È quella di. Boh. Non lo Io l'ho vista in Lydia Poet. so. Io l'ho vista perché la moglie è la ragazza di quello di. Del cantante Dei santi francesi, di. francescani. Esatto. Ok. Sei proprio un razzista, ma. No, razzista, Cos'è? no, misogino. Sì, perché non so perché ho detto razzista contro i bolognesi, forse, Salla. Veloce come il vento era il film che aveva reso Comunque, famosa. penso che sia molto famosa per Lydia Poet. No, ha fatto un botto di film, di cui alcuni italiani, alcuni no, e. Vabbè, ma come protagonista? Ce la favazza. Vabbè, niente. Tornando su Frankenstein, appunto, andatela a vedere su Netflix. E magari in due o tre puntate. Anzi, potete fare proprio il taglio a metà. Vabbè, noi in realtà non ci siamo preoccupati di spoiler cose strane, ma anche perché La storia è quella di la storia Frankenstein. è quella, cioè non è che. E il finale in realtà è un po' diverso dal libro. Nel libro mi pare che crepino tutte e due, se non sbaglio. Non dire chi sopravviva. Sì. Si danno fuoco. Cioè uno dà fuoco all'altro, insomma, una cosa del genere. No, lui si dà fuoco, la creatura, alla fine. Se non ricordo male. Eh sì, cioè lui muore sicuro bruciato, ma anche l'altro poi, o prima. Sì? Non Quello non moriva mi di ricordo. ipotermia o qualcosa del genere? Ah, di ipotermia, bravo, bravo, sì. Sì, però è proprio diverso, cioè la cosa che ha cambiato del toro è proprio, sono le relazioni tra loro. E che l'ha reso anche un X-Men praticamente. Sì, e che l'ha reso un X-Men, La sì. creatura è diventata un Sì, X-Men. vabbè, ma quello. È Wolverine. Sì, quando tipo cade nell'acqua. Boh, Senti, gli cioè, scoppia una dinamite in mano. vabbè, no, non è quello il punto. Però, cioè, in teoria lui non dovrebbe saper nuotare e quindi va alla deriva. E io mi chiedevo, ma non soffoca? Perché va bene rigenerarsi, però tipo Wolverine, No, se è tu proprio una volta. lo No, una volta che butti poi giù, è rimasto fuori, si è si rivitalizzato. ha creato l'aria. No, il suo cuore ricomincia a battere. Secondo me funziona anche con Wolverine. Sì. Cioè, se tu lo soffochi, decreti lo stato di morte, quindi l'hai soffocato per tipo un sacco di tempo, poi Sì. dopo un tot di tempo Sì. riprende, il suo cuore riprende a battere. Certo. Sì. Soprattutto se serve al fumettista. Ragioni di Esatto. beh, così di sceneggiatura, di scrittura, di... Dovremmo chiedere a lui, infatti, o a loro, a lei, non so chi è, non so chi è che sta scrivendo X-Men in questo momento. Che tra l'altro deve uscire il videogioco. Se esce il È nuovo film di vero. X-Men andiamo al cinema a vederlo, te lo dico. No, vado con mio padre, hai Se esce ragione. il gioco di X-Men al cinema, oddio, immagini Deve giocarlo uscire il soltanto. videogioco di Wolverine. Va bene, basta, la Potremmo smettiamo parlarne. di dire. Sì, in un altro podcast. No, non lo so. Va bene, dai. Noi questa puntata lunghissima è più lunga del solito e vi ringraziamo di averci seguito. Vi ringrazio per i commenti e la partecipazione al podcast. E basta. Ciao, ci vediamo settimana prossima. Beh, Un'anticipazione per la prossima? torniamo a film brutti, chiaramente. Ah, ecco. A te è Beh. piaciuto? Quale dei due? Perché uno mi piace un botto e dovresti sapere quale dei due. Tutti e due però sono piaciuti. Sì, uno Ah. mi è piaciuto, ma puntini puntini. Vabbè. L'altro è... Va bene, grazie di averci seguito e a settimana prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao.